Eccoci qua, salve a tutti cari amici di Radio Big World. Benvenuti da Fumino e da Lorenzo, che è qua un po' sperduto. Come sentirete, come forse riuscirete ad intuire, stiamo registrando da un pub che non è un caso. In effetti siamo ancora a Bristol, la cittadina inglese molto carina in cui siamo arrivati ieri, e abbiamo deciso di registrare da questo pub perché è probabilmente l'unico pub realmente inglese che abbiamo trovato in questa città. Sì, perché ce ne sarebbero tantissime di cose da dire su questa città. È una città molto bella, molto viva, che ha vissuto probabilmente in passato di tanta linfa vitale, ma che dal nostro punto di vista oggi soffre un po'. È una città che sembra si stia difendendo dalla globalizzazione, sembra si stia difendendo appunto per difendere quella inglesità che è normale ci sia nelle città inglesi, ovviamente. Ed insomma, per celebrare appunto l'aver trovato finalmente un pub inglese nel mezzo a questa giungla di pub che sono un po' europeizzati, e addirittura una cosa che abbiamo notato, ne abbiamo notate molte, infatti non so quante riusciremo a metterne insieme rispetto a questa città, ma abbiamo notato veramente un sacco di cose in questa città. Ci sono molte, ad esempio, caffetterie o comunque locali che potrebbero essere sia parigini quanto milanesi o quanto madrilegni, posti dove sembra, sì, sai di essere in una città diversa dalla tua, o una città diversa da quella che hai visitato nella vacanza precedente, però ti sembra di essere sempre nello stesso posto. Invece in questo posto qua, che non ho nemmeno idea di come si chiami, Hope Anchor probabilmente è il suo nome, lo vedo scritto in una lavagnetta, sembra davvero di essere entrati finalmente in un pub inglese. E qui chiederei al mio socio, che mi supporta e mi supporta, di fare un po', siccome ne abbiamo parlato molto di questo discorso della spersonalizzazione di questa città, che ha visto tanti artisti, fra cui Banksy, che abbiamo visitato molto, infatti sta entrando gente ancora in questo pub. Abbiate pazienza se ci saranno dei rumori di sottofondo, cercheremo di essere abbastanza comprensibili, però appunto chiederei al mio socio il suo punto di vista sulla spersonalizzazione, sul tentativo di evitare la spersonalizzazione di questa città rispetto all'essere una cittadina inglese, in quanto magari diventare una cittadina del mondo uguale a tante altre. Salve a tutti. Bristol, ne ho un'idea un po' più chiara anch'io, e posso dire che, secondo il mio punto di vista ovviamente, è una cittadina che ha tuttora un grosso conflitto interno, come si può dire, ha alcuni passati non recenti, però passati l'un con l'altro, che si vedono, la città ne è marcata, e comunque sia va avanti, e lo si nota nel rimanere un po' indietro e nel tendere ad andare avanti, perché la società logicamente va avanti. Vedi un grande passato anni 80, vedi un gran passato a cavallo fra gli anni 90 e i primi del 2000 che ti porta finora, e noti un gran conflitto, fra appunto generazioni. Un conflitto che se ne subisce tutti, sostanzialmente, di una società che va avanti, non è mai lenta, corre e non ti permette di soffermarti a quello che hai appena lasciato. Fai una cosa bella e subito corri per farne un'altra bella, quasi come dire che quella bella che hai appena fatto conta meno di quella che è bella che avrai da fare. Bristol è combattuta, ganza, non troppo grossa, facilmente circolabile, mamma mia, voglia che si gira benissimo senza il minimo mezzo di trasporto, ed è veloce, e è veloce nel muoversi, non gli stai dietro per la società che va avanti, però ne rimane affascinato per tutto quello che ha vissuto nel post-punk e nel periodo più attuale. Inoltre, una cosa che abbiamo notato in questa città è un'architettura che sembra quasi che venga dagli anni 20 o 30 dall'Italia, un'architettura che ci ricorda, diciamo, l'architettura fascista. Non c'è mica niente da vergognarsi, d'altra parte è la storia dell'Italia. In effetti ci sono molti molti palazzi che abbiamo notato che sono architettonicamente riconducibili a quel periodo. Magari non è vero, magari non è così, è solo un'impressione nostra, però questa è la nostra impressione. In effetti, sinceramente, per come me l'avevano raccontata questa città alcuni amici che ci erano stati in visita prima di me, io me l'aspettavo diversa, e invece, appunto, come abbiamo realizzato con Lorenzo, questa è una città che soffre, ma soffre nel senso che cerca di combattere per non omologarsi magari alle altre cittadine europee, magari alle altre situazioni più comuni, e per restare con una propria identità. Ancora abbiamo visto in giro dei graffitari che stavano colorando i muri della città assolutamente con bombolette, spray e addirittura acqua, pur di continuare a fare delle cose molto colorate, personali, artistiche per questa città. Io mi auguro che questa città riesca ad evitare la spersonalizzazione, ma ahimè ho l'impressione che la centrocommercializzazione, per dire un neologismo, riesca a fermare questa barbarie nei confronti appunto della storia della città, ma non solo. Ad esempio, ieri sera siamo stati in giro e abbiamo tra l'altro fatto dei buoni pasti, cosa si può vedere e mangiare a Bristol. Rispetto al Galles, rispetto a Cardiff, per la prima volta ho trovato le Jake Potatoes, che sono un piatto tipico inglese, e me le sono prese subito, tra l'altro buonissime, con del buonissimo formaggio e accompagnate da una buonissima bottiglia di acqua, perché non è che si può bere la birra insieme al Jack Potatoes così senza essere inglesi. Io non sono inglese, ci ho bevuto l'acqua, però insomma la Jack Potato era veramente di qualità superiore. Ed inoltre, girellando per la notte di Bristol, abbiamo trovato un locale in King Street, quindi se qualcuno capitasse a Bristol che cerchi di passarci, abbiamo trovato The Old Duck, che è un locale che propone musica dal vivo praticamente tutte le sere, ed è stata un'esperienza eccezionale. Grandi barristi, grandi personaggi a frequentare quel locale, è una grande band jazz. Quindi ve lo consigliamo, se capiterete a Bristol cercate King Street per la sera, The Old Duck, per passare la vostra serata. Bene, cari amici, ce n'è veramente tantissime da dire, probabilmente non me le sono ricordate tutte, probabilmente non sono più in grado di continuare a elencarvele, perché bisognerebbe che riuscissi a fare mente locale da quante ne abbiamo viste, ma vi assicuriamo che Bristol è veramente una città da visitare alla ricerca della Bristol che fu. E ancora ce ne sono di posti che la propongono, non fermatevi. Per nostro consiglio, quando verrete a Bristol, alla Bristol commerciale, alla Bristol turistica, cercate una Bristol più autentica e vi divertirete. Bene, oggi siamo a Bristol, domani chi lo sa, e il nostro appuntamento è come sempre per la prossima volta, sempre sulle frequenze di Radio Big World. Grazie a tutti e buona serata! We'll be right back. isola di chi, secondo me, sei.